Raccontaci del tuo orto. Ovviamente primavera, e cosa si fa in primavera? No, l'ho zappato tutto, tiro fuori l'erba perché non la mango sotto, no? La porto via l'erba. Ecco. Adesso incomincio a vangarlo, le metto il concime, quello che c'è, organico e tutto, e dopo incominciamo a lavorarlo. Certo, bisogna essere qua tutti i giorni nell'orto, e se no non farlo. Non è da dire il vango e basta e dopo, eh no, tutti i giorni, magari un'ora, due, ecco, e tutta la stagione mi continua a mettere giù uova. Quali sono le tue verdure preferite? Ah, le zucchine, i cetrioli, i pomodori, insalata, adesso pago le cipolle perché è adesso il tempo delle cipolle. Ecco, il sedano, il prezzemolo, tutto, sì, e coltivo tutto. E lì delle vigne invece, ecco.